Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Walks amongst you, all you tired human beings. He's got all the things a cripple has, not two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally, he doesn't miss him, he's too fucked up to care. Is that you in front of me? Coming back for even more, exactly the same. Well, you must be a masochist. The love of modern laughter on his last leg, on his last leg. Crippled your heart 100 times and still can't work out why. You see, I've got this disease, I can't shake and I'm just rattling through life. Oh well, this is how we do things now, yeah, this is how the modern stays scared. So I cut all the good stuff, yeah, I cut my food. Sì, esatto. E questa canzoncina può essere, diciamo, il motivo conduttore dei delitti. Partiamo da una supposizione da me formulata che sinceramente ritengo esatta. L'assassino è uno schizofrenico paranoico. L'individuo che uccide con quella furia lo fa certamente solamente quando è in preda a un raptus. Tuttavia, nella vita quotidiana questa persona può apparire normale, come lei, come noi. E quando uccide è costretto a creare di nuovo intorno a sé quelle particolari condizioni che danno modo alla sua follia di potersi liberare. Una data ora, un certo giorno, persino un vestito. Qualcosa, insomma, che gli faccia risorgere le stesse immagini che in un tempo remoto furono la cornice occasionale del suo trauma scatenante. Let's get dancing straight. Come on, watch it on TV. Same pictures of the sea. Cooking my brain on the beach. Let's go dancing street. Come and watch it on TV. Same old pictures of the sea. Cooking my brain on the beach. Let's go dancing street. Come and watch it on TV. Same old pictures of the sea. Let's go dancing in the street. Come and watch it on TV. Same old pictures of the sea. Keep my brain on the beach. Let's go dancing in the street. Come and watch it on TV. Same old pictures of the sea. Keep my brain on the beach. Come un uccello sopra un filo, come un ubriaco in un coro di mezzanotte, ho provato a mio modo ad essere libero. Come un verme sopra un amo, come un cavaliere uscito da un qualche vecchio libro, ho tutti i miei brandelli per te. Se io sono stato crudele, io spero che tu possa dimenticarlo. Se io sono stato falso, io spero tu capisca che non lo sono mai stato con te. Come un bambino nato morto, come una bestia con il suo corno, io ho dilaniato chiunque si avvicinasse a me. Ma io giuro, su questa canzone e su tutto ciò che ho fatto di sbagliato, che metterò tutto a posto per te. Io vidi un accattone poggiato alla sua stampella di legno, mi disse: «Non devi chiedere così tanto». E una dolce donna, appoggiata alla sua porta, mi gridò: «Ehi, perché non chiedi di più?» Oh, come un uccello sopra un filo, come un ubriaco in un coro di mezzanotte. Io ho cercato a mio modo di essere libero. Questa era Bird on the Wire di Leonard Cohen. Ciao Giulio. Ieri sera ho accompagnato in auto a Linate della gentaglia, tra virgolette, con cui sto lavorando. L'autoradio sintonizzata su Rock FM ed eclettica in onda. Potere della buona musica. Hanno smesso di parlare di calcio e di politica e mi hanno stupito con discorsi in merito a viaggi e concerti. Non me lo sarei mai aspettato da loro. Ci siamo salutati con la promessa che gli avrei spedito il link per ascoltare via web. Questo mi ha scritto Alex da Milano, ovviamente, visto che accompagnava in macchina a Linate. Io vi invito a scrivere a giulio@radiorockfm.com, raccontare degli aneddoti come questo, delle sensazioni, raccontarmi della vostra vita, perché poi queste parole vanno a condire eclettica, il condimento fondamentale per costruire il piatto che poi io vi servo ogni sera. Piatto che si compone di musica, di letture e di film. Profondo Rosso questa settimana, come Leonard Cohen, e come anche la musica che arriva da posti diversi, da tutto il mondo, come Frightened Rabbit, che arrivano dalla Scozia, The Modern Leper è il titolo del pezzo che ha aperto questa seconda parte del volume numero 2. Poi Drink to Me dall'Italia, da Ivrea per la precisione, con Dancing on TV. Hanno poi avuto spazio i Gringo Star con All You All dagli Stati Uniti, e si ritorna in Italia con un progetto che ormai è uscito da parecchio tempo per Casa Sonica. Io non li ho mai trasmessi, ora mi è arrivato il terzo, se non erro, singolo estratto da questo album, e questo singolo ho deciso di mettervelo. Loro sono i Petrol, la formazione di Franz Goria e Dan Solo, che sono usciti primavera, sì, era primavera 2007, con l'album Dal Fondo. Da questo album l'estratto è L'ultima notizia è la stessa di sempre. E la bottiglietta! Tutta la bottiglietta, porca puttana! Finalmente! È ora che la sto cercando per tutti gli uffici! Cosa vuoi? Ma nessuno le entra alle macchine del cazzo! Le controllano, dottor, ma se fregano le bici! È naturale! Come ti sbagli! Tanto io è pieno di ladri, eh! Scusi, dottor, che forse a lui! Ma me a te, bischero! Right here on a reel in a theater, a real occurrence. You're in a box with the top popped open, like the soldiers in a Trojan. Unexpected, one direction, can't go both ways, that's what the Pope say. Every note played in your soundtrack is based around fact, how you get down and act. The end of the cinema, into the darkness, the usher escorts you to your fortune, morphing into the final solution. Might be gruesome, dependent on your contribution. Your vision gets clear and translucent, witnessing your own video revolution. A glance here on the reel in a theater, a real appearance. I'm in a place where the space makes way for wars like Obi-Wan and Vader. Play for a private screening. I've been dreaming, that's what my mind thinks. All my hijinks broadcasted, it's trapped with my issues and whatever script I choose. Sound is magnified, amplified, forcing the subject, discovering a new adjustment. Something for my understanding, it might be expanded depending on the programming. I spot my ways of abandon, witnessing my own parade on the planet. Brano alla chiusura di Eclettica di quest'oggi. Eclettica, che vi ricordo, è presente sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni fra le 19 e le 20, oltre che essere disponibile in podcasting. Prima però di annunciarvi il brano che sta per arrivare, che fra l'altro è un'assoluta novità, vi ricordo che vi siete appena ascoltati quello che il DJ Ampliv ha fatto di videotapes dei Radiohead, ed è quello che ha fatto di tutto in Rainbows. Ha ripreso ogni singola canzone e l'ha rifatta, e ha quasi tutte aggiunto la Z in fondo al titolo. Si chiude con un trio che proviene da Brooklyn, Religious Knives, e questo è il nome del trio che nel 2008 è uscito con un album dal titolo It's After Dark, dal quale vado ad estrarre The Sun. Thank you. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 18, volume numero 2. Indice, Megaphone, The Zen Circus assieme a Brian Ritchie, Kim Deal e Kelly Deal. Grimoon, Ghostland Observatory, Friars, Wolfkin, Frightened Rabbit, Drink to Me, Gringo Starr, Petrol, Ampliv vs. Radiohead, Religious Knives. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.